pesano sempre un po' di più di sabbia, terra e polvere che non si stacca più. Un fiore ogni tre vite ed un fiore che poi sarà robusto ed alto, sì, ma profumato mai. Le bestie nel deserto hanno cuori lenti che segnano la danza per le nuvole. Il sangue resta freddo purché il sole resti lì, ma due o tre piogge servono per occhi umidi, a meno che faccia un poco d'ombra tu, a meno che il sole non lo cerchi più, a meno che butti via le bussole, bruci le mie bussole. Chiama acqua pure lui, snobbato dagli angeli, volato da avvoltoi, e turbido di spiriti che spesso giocano in sella al vento, fischiano e poi ululano, a meno che faccia un poco d'ombra tu, a meno che il sole non mi accechi più, a meno che butti via le bussole, bruci le mie bussole.